Allora è espressamente richiesto e deve essere riportata sulle etichette di questi prodotti il parere del medico per una prescrizione. Ovviamente tutti possono immaginare quanto raro sia il ricorso al parere del medico in chi frequenta palestre, in chi fa sport non seguito da persone competenti. C'è un po' il passaparola, lo dice l'amico, l'ho provato io. Molto spesso anche l'allenatore, il preparatore atletico che vende lui stesso questi prodotti, perché la vendita di questi prodotti non è soggetta a norme particolari, possono essere venduti nei supermercati, nei negozi, nelle farmacie, ma anche in quei negozi specializzati proprio per integratore o per articoli sportivi, l'abbigliamento, articoli tecnici, ma possono anche essere venduti porta a porta, sì. Oppure palestra o spogliatoio a spogliatoio. Allora, sarà una puntata ricca questo 824 0024, ma dottor Confalonieri, lei che è un amico abituale del venerdì, il tema di oggi io credo interesserà una vasta fetta dei nostri ascoltatori, sportivi e non. Proviamo a coinvolgerli con una domanda o con più di una domanda. Sì, innanzitutto mi sembra preziosa la definizione che ha dato il professor Giampietro per fare chiarezza su un tema relativamente al quale la confusione è uno dei grandi problemi. Io quello che vorrei capire dai nostri ascoltatori, proprio per fare un pochino di chiarezza, è: voi avete utilizzato degli integratori? Non li avete mai utilizzati? Con quali risultati? Chi ve li ha consigliati? Brava, anche questo a me sarebbe oppure benissimo. Li avete utilizzati per voi o li avete utilizzati per i vostri figli? Perché poi c'è anche tutti i ragazzi che fanno sport a cui gli allenatori, piuttosto che gli stessi genitori, consigliano degli integratori. Quindi vorremmo proprio che ci raccontaste il vostro rapporto con questi supplementi dietetici alimentari. Perché lo fate, se siete contenti, se non lo siete, o se viceversa avete avuto esperienze anche negative per la salute o per il rendimento dei ragazzi. È un tema difficile, è un tema delicato. Abbiamo voluto affrontarlo perché secondo noi è meglio parlarne anche rischiando qualcosina che lasciarlo in un angolo, facendo sì che ciascuno nella sua palestra o nel suo spogliatoio se lo gestisca quasi di nascosto. Quindi davvero oggi abbiamo bisogno che ci raccontiate le vostre esperienze. È fantastico questo dottor Confalonieri, 824 0024, quindi aspettiamo le vostre domande, cercheremo di capire se esistono rischi o benefici legati all'uso di questi prodotti. Messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Esperienza e innovazione, due parole che sono in realtà due mondi che devono dialogare tra loro. Questo è un grande tema, è un tema che guiderà tutti gli eventi collegati alla giornata per la ricerca sul cancro che si apre proprio oggi, venerdì 7 novembre, con la tradizionale cerimonia a Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica e delle massime cariche dello Stato e del mondo scientifico. Parliamo di ricerca sul cancro e per il cancro insieme al dottor Mario Colombo dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno dottor Colombo, benvenuto. Buongiorno a lei. Senta dottore, io vorrei che partire con lei dal valore dell'esperienza, perché sicuramente l'esperienza ha dato ottimi frutti e li sta ancora dando per curare sempre in modo sempre più efficace il tumore. A che punto siamo? Siamo a un buon punto, direi, in quanto l'esperienza vuole dire anche conoscenza, e da questo punto le conoscenze sui meccanismi molecolari di trasformazione, di progressione del tumore, diciamo, sono direi piuttosto buone. E da qui bisognerà poi partire per trovare gli strumenti poi per sconfiggere il tumore attraverso appunto i meccanismi di cui abbiamo imparato essere importanti proprio per la sopravvivenza di questo male. Per fare un esempio pratico, se il tumore fosse un territorio, noi di questo territorio che cosa conosciamo? L'esperienza che cosa ci ha permesso di conoscere? Se questo fosse un territorio ci ha permesso di fare sicuramente una planimetria di questo territorio. Conosciamo piuttosto bene se ci sono asperità, se ci sono laghi, colline, insomma, conosciamo la topografia di questo territorio, ma soprattutto direi che una delle cose forse più importanti è che ne conosciamo anche i contorni, per cui termine un po' più tecnico possiamo dire il valore dell'environment, cioè come questo questo tumore si rapporta con i tessuti circostanti, che è una cosa molto importante, in quanto un tumore, se fosse avulso da un corpo, non potrebbe progredire. Dottor Colombo, allora, abbiamo parlato del valore dell'esperienza, adesso bisogna parlare del bisogno dell'innovazione che c'è già stata grazie anche alla creatività italiana. Verso quali campi si è diretta? Per quanto riguarda ad esempio l'immunologia dei tumori, quindi alla possibilità di istruire il nostro sistema immunitario a riconoscere i tumori e quindi a debellarli, si è pensato ad esempio a dei vaccini. Sì. Ora questo è stato sicuramente possibile in tutti quei casi di tumore in cui ad esempio l'agente trasformante era ad esempio un virus. Certo. E di questi giorni si è parlato ad esempio ultimamente dei vaccini contro il papillomavirus, ad esempio, quindi individuare l'agente che induce l'insorgenza del tumore può permettere di fatto di fare dei vaccini che sono per lo più preventivi, quindi sì. Prevenire l'insorgenza del tumore conoscendone l'agente trasformante è sicuramente possibile. Sì. Più difficile ovviamente è utilizzare le armi dell'immunologia per andare a sconfiggere un tumore già presente. Immagino. Perché spesso poi l'immunologia, essendo una disciplina nuova, si cimenta quando già le altre terapie hanno fallito. Ma a parte questo particolare, bisogna dire che molto si conosce ormai su quelle che sono, diciamo così, le cellule del sistema immunitario che prendono l'interazione con le cellule tumorali e come avviene questo dialogo. Certo. Sappiamo molto dell'infiammazione. Voi avete praticamente scoperto che il cancro ha degli alleati potenti. Oh, sicuramente. Le stesse cellule del sistema immunitario possono in alcune situazioni essere, diciamo così, dirottate dal tumore come cellule di supporto alla sua crescita. Certo. E quindi noi dobbiamo ristruire, rinformare, ridire a queste cellule del sistema immunitario di non cadere in questa trappola e di non passare all'esercito nemico, ma di stare, esatto, nell'esercito, ecco, di difesa, diciamo, di non tradire. Nemico. Le state convincendo? Beh, c'è modo di farlo e si sta lavorando in questa direzione. Dottor Colombo, io la ringrazio per essere stato con noi. Buona Prego, giornata. A lei. Pronto soccorso. Vi ricordo che se volete sostenere la ricerca potete collegarvi al sito www.airc.it. Fatelo. E intanto noi torniamo al tema di oggi, agli integratori. Arrivano già tantissimi messaggi. 800 24 0024, il numero verde. Messaggi 349 238 6666. In linea con noi il professor Michelangelo Giampietro, in studio il dottor Confalonieri. Professore Giampietro, nella dieta seguita abitualmente, dico, dall'italiano medio, è possibile vi siano carenze di qualche minerale o di qualche vitamina, di qualche aminoacido che necessitano di essere integrate? Partiamo anche da qui. Ma intanto la dieta degli italiani sta cambiando purtroppo, non è più quella di una volta, quella che si ispirava al modello mediterraneo di alimentazione, sì, ricca di vegetali, ricca di frutta, di legumi, l'olio extravergine di oliva, eccetera. Se diciamo l'italiano non segue diete restrittive finalizzate in maniera più o meno congrua a perdere peso, e quindi se stiamo parlando di una dieta intorno alle 1800-2000 calorie, è probabile che carenze nutrizionali non ce ne siano. Anche con 1600 calorie può esserci un po' di difficoltà a coprire il fabbisogno di ferro per le donne in età fertile, ma a parte questo altre difficoltà non ce ne sono, purché però queste calorie vengano da una varietà sufficientemente ampia di alimenti, con la preferenza per gli alimenti di stagione e gli alimenti prodotti vicino al luogo dove uno risiede, cioè è quella politica dei cosiddetti alimenti a chilometro zero. Questo perché? Perché sono dei prodotti più maturi, raccolti quando, cioè, il prodotto, l'alimento è al massimo della sua potenzialità nutrizionale e contiene tutti i principi nutrizionali che noi consideriamo quel prodotto avere quando

a Giorgio di insomma, verificare un po' meglio quali possono essere le sue esigenze nutrizionali. Io vorrei una risposta breve dal dottor Confalonieri prima di andare ai mercati. Vorrei sapere se quegli integratori da banco, ovvero quelli multivitaminici, sono utili nei cambi di stagione, come si dice non servono e creano problemi, ci scrive Paola. No, non ha senso prenderli nei campi di stagione, è un'abitudine molto radicata questa, sì. Addirittura è un'abitudine delle nostre mamme e delle nostre nonne. Il mio punto di vista è che se c'è una carenza specifica di una vitamina o di un sale minerale legata alle abitudini dietetiche del soggetto, vi è la necessità di un'integrazione a quel punto, però sempre. Se non vi è carenza, non si giustifica l'integrazione in alcun momento della vita, quindi nemmeno nei cambi di stagione. Ci scrive Stefano da Udine: non faccio attività sportiva a livello agonistico, ma vado a correre 3 volte a settimana per 1 ora circa. I miei integratori sono un panino con prosciutto, salame ed una birra fresca. Per il momento funziona, ci scrive Stefano da Udine. Siamo tornati insieme oggi, puntata dedicata agli integratori. In linea con noi il dottor Michelangelo Gianpietro, in studio qua con me il dottor Franco Confalonieri. 824 0024, questo è il numero per intervenire, per inviare messaggi, 349 238 6666. Ma prima di continuare con il tema del giorno, vorrei aprire una parentesi sulla ricerca e parlare di SLA, sclerosi laterale amiotrofica. In questi giorni sono arrivate importanti notizie dal Congresso di Neurologia a Napoli. Uno studio ha dimostrato che i sali di litio rallentano il decorso della malattia, si tratta comunque di risultati preliminari, si attendono studi su larga scala. Arriva anche da Teleton, dal gruppo di ricerca del professor Antonio Musarò, un altro studio, un risultato che prova il coinvolgimento del muscolo nello sviluppo della malattia. Una cosa è certa, i ricercatori stanno lavorando per individuare precocemente la malattia, fare una diagnosi tempestiva. Cerchiamo di capire a che punto è la ricerca. In linea con noi abbiamo la dottoressa Caterina Bendotti del Dipartimento di Neuroscienze del Mario Negri di Milano. Dottoressa Bendotti, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Allora sì, per quanto riguarda quello che lei diceva del congresso, presso il congresso di Napoli, della Società di Neurologia, in effetti è stato fatto uno studio preliminare con i sali di litio che ha dimostrato un miglioramento nei pazienti e anche nei modelli sperimentali, però appunto, come diceva, si tratta di uno studio preliminare fatto su pochissimi pazienti e è in corso attualmente degli studi più su larga scala in diversi paesi europei e anche negli Stati Uniti e sapremo da questi studi se effettivamente questa è una terapia utile per i malati di SLA. Riguardo invece l'altro comunicato circa il coinvolgimento del muscolo nello sviluppo della malattia, in effetti questo è un dato estremamente importante perché fino adesso il muscolo era considerato come un contributo passivo alla malattia, essendo la parte innervata dal motoneurone che è la cellula che degenera in modo specifico in questa malattia. Invece il fatto che anche il muscolo prenda parte proprio nello sviluppo della patologia ci serve perché ci permette appunto di individuare quei marcatori, di poter diagnosticare la malattia più precocemente. Infatti questa malattia è una malattia piuttosto subdola che è difficile da diagnosticare ai primi sintomi perché si confonde con delle debolezze muscolari dovute a varie cause e ci vogliono circa un anno e mezzo per diagnosticare effettivamente questa malattia ed ovviamente essendo una malattia che dura in genere da 3 a 5 anni questo tempo è piuttosto lungo. Noi nel nostro laboratorio presso il Mario Negri in collaborazione con altri centri a Milano come ad esempio l'Istituto Oxologico stiamo cercando di individuare proprio a livello muscolare alcune proteine che si modificano molto precocemente, in questo caso nei modelli sperimentali che noi utilizziamo, che sono dei topi che sviluppano la malattia simile a quella dell'uomo, al fine di poter individuare appunto queste proteine come potenziali test diagnostici da applicare poi ai pazienti. Abbiamo già identificato alcune di queste proteine che ora stiamo cercando di validare proprio nei pazienti e speriamo che questo ci aiuti appunto a identificare subito la malattia e quindi a trattarla tempestivamente con le terapie che attualmente abbiamo e che non si sono rivelate molto efficaci proprio anche dovute al fatto che vengono somministrate piuttosto tardivamente. Io la ringrazio per il suo lavoro, buon lavoro e buona ricerca. Grazie tante. E torniamo a parlare di integratori. Vedo dai messaggi che c'è grande bisogno di informazione, anche un po' di confusione, ma preferisco dire bisogno di informazione. Ad esempio, ci scrive un ascoltatore, dice: dopo l'uso di integratori, vitamine, sali minerali tutti i giorni, ho più energia e controllo l'appetito. Insomma, si vive decisamente meglio. Un altro ascoltatore, Andrea da Scandicci, che ci scrive: spesso, se l'alimentazione è adeguata al fisico e allo sforzo fisico, che bisogno c'è di un integratore? C'è anche un messaggio di Rosa, che è un po' tra i due, no? E dice: mio figlio, 31 anni, pratica ciclismo a livello amatoriale e assume saltuariamente amminoacidi ramificati. Quali rischi? Si chiede la mamma. Dottor Confalonieri. Rischi importanti e reali probabilmente non ci sono. Bisogna capire se è giustificato l'utilizzo, nel senso che per un allenamento nemmeno quotidiano di ciclismo probabilmente è sufficiente una dieta che prevede un adeguato apporto di proteine, quindi non sono necessari pur non avendo rischi importanti correlati alla loro assunzione. Giorgio ci chiama da Roma, 824 0024. È caduto Giorgio, mi fa segno Peter Bescapè. Andiamo a Stefano che ci chiama da Pistoia. Buongiorno Stefano. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno al dottore. Stefano, siamo pronti. Grazie per essere stato richiamato. Senta, allora, io sono tra i 47 e i 48 anni, diciamo, quindi non più giovanissimo. E mi sono rimesso a fare un po' di attività fisica abbastanza pesante, tipo un po' di palestra, un po' di bodybuilding, sì, diciamo così. E, però siccome giustamente ho messo su qualche chilo come tutti quelli che non fanno attività, sì, e mi sono messo nelle mani, diciamo così, di un erborista che mi sta un pochino aiutando come dieta e anche come integratori, diciamo, prendere per fare questo tipo di sport. Ora, che cosa le ha detto il suo erborista? Allora, niente, mi ha detto che giustamente devo calare i carboidrati, perché sennò si rischia di incrementare solamente, diciamo, il grasso. Mi ha dato delle proteine in modo per diminuire carboidrati e aumentare proteine, diciamo, che sono degli estratti liofilizzati del latte e dell'uovo, diciamo così. Sì. Ecco, io non le digerisco. Non le digerisce. Senta Stefano, e quindi non si trova granché bene perché ha questo problema di digestione. Vorrei affrontare proprio il caso di Stefano che dà tanti spunti. Dottor Confalonieri, poi passiamo al professor Giampietro. Ma innanzitutto qui ci sono due obiettivi differenziati. La perdita di peso con una dieta ipocalorica e un allenamento che non preveda soltanto l'incremento della massa ma anche un consumo selettivo dei grassi, si può perdere peso, ovviamente. Questa dieta ipocalorica poi potrebbe essere anche una dieta iperproteica, senza ricorrere magari agli estratti, come è capitato a Stefano, che sono difficilmente digeribili, e quindi una dieta ipocalorica iperproteica correlata con un allenamento adeguato, in questo caso in cui gli obiettivi non sono straordinariamente difficili e l'impegno è relativo, dovrebbero essere più che sufficienti a raggiungere i risultati che Stefano si prefiggeva. Professor Giampietro, ha bisogno di aggiungere qualcosa prima di passare? Sì, decisamente. Intanto devo dire e sottolineare questo e dare un consiglio all'amico Stefano. L'erborista che lo sta seguendo sta commettendo un reato, perché la dieta la può prescrivere solo un medico, è un biologo nutrizionista. Quindi un erborista non ha titolo, non ha competenza. Se prescrive diete, se vuol far dimagrire qualcuno, deve avere l'accortezza prima di laurearsi in medicina e poi di fare questa attività. È importante questo, sì, perché l'erborista non sa, non ha chiesto e non poteva chiedere, anche per una questione di privacy oltre che di ignoranza della materia, quali erano le malattie familiari di Stefano, quali erano i problemi di salute di Stefano.

una fetta di crostata o di un ciambellone ben fatto in casa. Allora, grazie professor Gianpietro per essere stato con noi, grazie al dottor Franco Confalonieri e buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi, a risentirci. Grazie, ci sentiamo presto. Io vi volevo ricordare solo una cosa, nelle farmacie di tutta Italia saranno presenti in questo fine settimana i volontari della Croce Rossa, con un'agenda molto speciale che racconta proprio la storia dei primi 50 anni della Croce Rossa italiana. Si potrà dare un contributo che ovviamente sarà devoluto alla Croce Rossa italiana. E poi ovviamente volevo ricordarvi che noi ci sentiamo domani per Questa Casa Non È Un Albergo e poi lunedì torniamo ad occuparci di salute. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.